E senti come soffia bene. Sarà la notte che sale addosso. Sarà che forse ti chiamo adesso. Sarà che in fondo meglio un messaggio. Se ci vediamo da te lo stesso. Sarà la notte, sarà ribelle. Sarà che noi non pensiamo a niente. Niente castelli sotto ai cuscini. Niente di niente. Più giù ti sento, più su ti prendo. Dentro ad un brivido che bussa sotto al letto. A ritmo lento, a ritmo svelto. Dentro ad un brivido che soffia nell'orecchio. E senti come soffia bene. Sottofondo c'è sempre Vasco. Ti giuro ormai sei un pensiero fisso. Un desiderio che non mi perdo. Ad occhi aperti con poca luce. Ti prendo forte un po' sottovoce. E come soffia nei tuoi respiri sulla mia pelle. Più giù ti sento, più su ti prendo. Dentro ad un brivido che bussa sotto al letto. A ritmo lento, a ritmo svelto. Soffia nell'orecchio. E senti come soffia bene. Bene, bene. E senti come soffia bene. Bene, bene. E tutto quello che c'è. Questo sentirsi in disordine. Che non capisco cos'è. Ma non ho voglia di smettere. Fare finta di scappare passa in un secondo. Fare finta di scappare passa. Più giù ti sento, più su ti prendo. Dentro ad un brivido che bussa sotto al letto. A ritmo lento, a ritmo svelto. Dentro ad un brivido che soffia nell'orecchio. E senti come soffia bene.